Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 9 febbraio con alcuni titoli, ne cito pochi perché voglio subito gettarmi nella lettura delle notizie, davvero tante interessanti oggi. Il Sole 24 Ore apre sull'effetto spread capitali verso i paesi emergenti, mentre il Corriere della Sera, Roma, nuovo colpo alla giunta. Repubblica invece ha un'apertura sul lavoro, la strage nascosta, 100 morti dimenticati, inchiesta sugli incidenti non denunciati e nei cantieri in nero. La questione di Roma è anche centrale per La Stampa, Virginia furiosa via l'assessore, per Il Messaggero accuse a raggi, crisi in giunta. Come vedete il tema è questo, ma voglio appunto buttarmi subito a leggere alcune notizie, a cominciare dalla Rai puntata seconda. Oggi La Stampa continua la pubblicazione di un documento interno Rai su ieri le spese per i conduttori. Oggi avremo ospite Massimo Giletti, parleremo di questo. E per quel che riguarda i conduttori Rai e i contratti loro, oggi invece La Stampa si concentra sulle fiction. Nel business delle fiction Rai un tesoro conteso da 200 milioni. Paolo Baroni e Paolo Festuccia raccontano ogni anno la Rai investe circa 200-220 milioni di euro nella produzione di fiction e TV movie. Tesoro conteso da tutti i più importanti produttori, dai giganti mondiali dei format, Endemol, Fremantle, Banjai Entertainment. E quali sono le fiction che prendono più soldi? Allora, uno dei successi come Rocco Schiavone, la passata stagione batte tutti, mette in cassa 10 milioni 300 mila euro con la sua cross production, 7 milioni 890 mila alla fiction Sirene, destinata a Rai 1, 1 milione 820 mila euro per I due soldati, 420 mila euro per l'avvio della produzione Il cacciatore di mafiosi. Endemol Shine arriva a 9 milioni e 300 mila, soprattutto grazie all'acquisto della settima serie di Prova c'è ancora Prof. Oh, manco avessi visto mezza di queste, mezza puntata di uno di questi. Non so neanche, leggo dei titoli che per me sono in sanscrito. E, va bene, insomma, tutte le fiction, se volete, quanto guadagnano fiction per fiction, questo dalla TV di Stato. Mi sembra giusta la trasparenza, no? Al di là poi dei commenti che uno può fare. Sono soldi pubblici, anche in parte con il canone, è la TV pubblica, è servizio pubblico, che si sappia in nome della trasparenza. Invece La Stampa ha messo mano a un documento che è riservato, e quindi tutte queste cifre sono cifre, come dire, segrete, che vengono spiattellate sui giornali. E fa un po' specie affiancare a questa notizia ciò che scrive Carlo Tecce, sempre sulla Rai, a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Affianco a queste cifre milionarie, e per carità giusto per produzioni poi molto seguite, la Rai da mesi non paga i collaboratori precari. Pagina 6 del Fatto, questo è il titolo. Sistema interno bloccato, niente soldi da ottobre, trasferte annullate. Il capo del personale, Paolo Galletti, promette, rassicurando l'azienda, migliaia di professionisti che contribuiscono al prodotto televisivo Rai che non ricevono un euro da 4 o addirittura 5 mesi, e rassicura dicendo ancora una settimana di pazienza, poi il sistema sarà sbloccato. Vuol dire che il sistema per la gestione delle retribuzioni, chiamato SAP, da tempo è bloccato. Oltre agli sprechi, i giochini politici, gli amici di cordata, l'odierna Rai attraversa un periodo di degrado strutturale. Ecco, poi quando si fanno magari le puntate sul precariato, i giovani in disgrazia, i trentenni che a volte si tolgono la vita, magari parlare anche banalmente di queste cose. Insomma, generazione di una certa età, che non identifico, ma potete immaginare che ha distrutto la generazione di trentenni, e però analizza ora e parla di quella generazione spiegando come si può affrontare quei drammi. È tutto un paradosso l'Italia, un paradosso. Per cui da una parte milionate, dall'altra parte appunto i collaboratori precari, spesso trentenni, che non vengono pagati per 5 mesi. Poi tante volte le spiegazioni sono molto più semplici e banali dalle cose pratiche di tutti i giorni invece di grandi discorsoni. Comunque, questo succede e raccontano i giornali. Oh, voglio saltare sul Corriere della Sera invece, perché il Corriere della Sera è un'intervista al Papa, niente meno. In realtà è Civiltà Cattolica, col suo direttore, il gesuita Antonio Spadaro, che ha intervistato il gesuita Papa Francesco. E l'intervista però è riprodotta dal Corriere della Sera, pagina 6 e 7, con richiamo in prima pagina. Cosa dice il Papa? Titolo: sì, c'è corruzione in Vaticano, ma non perdo la mia serenità. Parla di tante cose, tematiche religiose, e va bene. Quello che mi interessa invece sono i passaggi legati alla corruzione. Io non ho problemi nel dire che questa che sto vivendo è un'esperienza completamente nuova per me. A Buenos Aires ero più ansioso. Non prendo pastiglie tranquillanti, dice il Papa. Gli italiani danno un bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. Hai capito, Papa Francesco? Mi sentivo più teso e preoccupato prima, insomma, non come adesso. Ho avuto un'esperienza particolare di pace profonda dal momento che sono stato eletto e non mi lascia più. Vivo in pace, non so spiegare. Poi racconta: sì, c'è corruzione in Vaticano, ma io sono in pace. Se c'è un problema scrivo un biglietto a San Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia. È la statua di San Giuseppe che dorme. E ormai lui dorme sotto un materasso di biglietti. Questo a dire che evidentemente di corruzione ne ha vista il Papa. Per questo io dormo bene, è una grazia di Dio. Dormo sempre 6 ore e prego. E poi parla anche degli abusi sessuali e dice il Papa: il Signore vuole tanto che i religiosi siano poveri. Quando non lo sono, il Signore manda un economo che porta l'istituto in fallimento. Circa gli abusi sessuali, pare che su 4 persone che abusano, 2 siano state abusate a loro volta. Si semina l'abuso nel futuro. È devastante. Se sono coinvolti preti o religiosi, è chiaro che è in azione la presenza del diavolo che rovina l'opera di Gesù tramite colui che doveva annunciare Gesù. Ma parliamoci chiaro, questa è una malattia. Se non siamo convinti che è una malattia, non si potrà risolvere il problema. Quindi attenzione a ricevere informazione candidati alla vita religiosa senza accertarsi bene della loro adeguata maturità affettiva. Per esempio, mai ricevere nella vita religiosa in una diocesi candidati che sono stati respinti da un seminario o istituto senza chiedere informazioni molto chiare e dettagliate sulle motivazioni dell'allontanamento. Così il Papa risponde di alcuni mali della Chiesa: corruzione e abusi sessuali. Trovate l'intervista a Civiltà Cattolica riproposta dal Corriere della Sera. Voglio invece leggere da Repubblica il Giorno, giustamente sono dedicate 2 pagine su il sesso e i ragazzi. È una grande inchiesta del Censis che ha sentito gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, i millennials, 1000 giovani residenti in tutta Italia, sul rapporto che hanno col sesso, anche le informazioni legate al sesso, il sesso dei ragazzi, pagina 18-19 di Repubblica, ma anche il Giorno dedica 2 pagine a questo. L'età media del primo rapporto a 17 anni, il 66,3% si ritiene abbastanza informato sui temi della sessualità. Il 15,3% si dice molto informato. Un punto è chiaro: il ruolo della scuola resta centrale. Il 62,3% risponde che soprattutto attraverso i media indicati in maniera generica ha saputo attraverso di loro delle infezioni sessualmente trasmissibili. Il 53,8% invece dice è la scuola a dare informazioni. Molti invece le recuperano su internet. E tra l'altro c'è un'intervista sul Giorno alla 16enne Beatrice Vendramin, che solo su Instagram ha 555.000 followers, quindi è una giovane molto seguita dai giovani. Ed è lei che a parlare di questa, lei che ha 16 anni, a parlare di questa relazione del Censis e dice: noi giovani in genere, almeno raccogliendo l'esperienza di tutte coloro che mi scrivono, la percezione che ho io è che alla base di tutto, come condizione per fare il passo, cioè il primo rapporto, ci debba essere un rapporto di fiducia. La prima volta deve essere con una persona che ti vuole bene davvero. E però conferma: sinceramente ci informiamo soprattutto in rete, è il canale principale, purtroppo non tanti ragazzi leggono i giornali. C'è da dire che non è che i giornali parlano di informazione sessuale per i giovani, quindi potete anche non leggerli da questo punto di vista. I miei me li fanno leggere tutti i giorni, mi fanno guardare a pranzo e cena il telegiornale, anche qui dove non vedo grande informazione però relativa al sesso e ai ragazzi. Comunque parla questa ragazza, vi segnalo queste due pagine, cari giovani e genitori di adolescenti, perché insomma il Censis ha fatto questa ricerca, Repubblica e Il Giorno ne parlano, mi sembra assolutamente importante. Ma siamo all'articolo che mi fa pingare della giornata. Guardate, queste sono storie veramente che devastano il rapporto che uno cittadino italiano deve avere con la giustizia. Mafia: il giudice ritarda le motivazioni di un anno, scarcerati i condannati. Succede a Palermo, lo racconta Riccardo Arena sulla Stampa, pagina 31. Ci sono commercianti che avevano usato gli esattori del racket, rompendo il muro di omertà, trovando il coraggio di denunciare. Ebbene, tra qualche giorno questi commercianti vedranno in libertà passeggiare davanti ai loro negozi e alle loro aziende taglieggiate persone condannate fino a 10 anni di carcere, persone ritenute capi mafia. Lasceranno le celle perché il deposito della decisione del GUP Sergio Zino è arrivato con già scaduti i 10 mesi, i termini ultimi. È stata chiesta anche una proroga perché le sentenze erano un processo molto complicato, quindi lunghe da scrivere. Il provvedimento del tribunale e del primo presidente del tribunale, Salvatore Di Vitale, è stato ritenuto illegittimo e dunque domenica lasceranno le celle persone che hanno pene fino a 10 anni, sono 14 persone. Alcuni hanno accuse di essere capi mandamenti, capi mafia, e si ritroveranno i commercianti che li hanno denunciati dopo una faticosissima opera di persuasione da parte degli inquirenti, delle associazioni Addio Pizzo, Libero Futuro, ispirate tutti alla denuncia di Libero Grassi: denunciate, denunciate, denunciate, mandate in galera. Eccoli lì, liberi. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan, il Sancho Panza dell'informazione. Va bene. No, devo dire, mi è arrivato un messaggio che mi ha letteralmente sconvolto. Ho risposto all'ascoltatore via WhatsApp. Mi dice: ma ti ascoltano tanti che portano i bambini, i ragazzini a scuola, quindi puoi evitare di parlare di sesso o di abusi sessuali o di pedofilia. Ma sono veramente basito, ma lo faccio apposta. Cioè, siamo ancora al concetto che per affrontare le problematiche coi ragazzi o per proteggere i ragazzi la cosa migliore è nascondere loro le cose? Ma guardate che il mondo va al contrario. Se parlate con qualsiasi pedagogista, qualsiasi psicologo dell'età evolutiva, vi dice il contrario. Bisogna parlare, bisogna spiegare, bisogna raccontare ai vostri figli quello che succede, quello che sono i pericoli intorno. Non nasconderglielo, far finta di nulla, perché così si pensa di proteggerli. Ma davvero pensate ancora che il mondo vada al contrario? Vabbè, sono basito. Andiamo avanti, andiamo avanti. La politica. E qui inciso, non iniziate a dire: sei ossessionato con la Raggi, sei un antigrillino, smettetela con queste cose. Cioè, su tutti i giornali la vicenda di Virginia Raggi, oppure volete far finta di nulla? Insomma, il colloquio strappato all'assessore Berdini sulla Stampa che ieri leggevo, colloquio nel quale lui diceva peste e corna nei confronti di Virginia Raggi, colloquio registrato, dunque c'è un audio non smentibile. Beh, ha letteralmente trascinato nella bufera la giunta. L'audio fa infuriare Virginia Raggi. Tutti raccontano questo retroscena. Ilario Lombardo, a pagina 5 della Stampa, di una Virginia Raggi che chiama Beppe Grillo dicendo: hai sentito, questo è troppo, lo caccio, è una schifezza, non lo voglio più tra i piedi, è una schifezza l'audio, non lo voglio più tra i piedi, è inaccettabile. Poi pubblicamente ha detto Berdini si è scusato con i ceci sotto le ginocchia, le cenere in capo, eccetera. Però il risultato è che rimane, perché Virginia Raggi vorrebbe mandarlo via subito, ma dal Movimento 5 Stelle fa notare non è che trovi un altro assessore così in un giorno, e quindi c'è la nuova formula, l'assessore congelato, nel senso che è lì in attesa che venga sostituito, intanto sta lì. Comunque i giornali titolano tutti così: lo sfogo con Grillo, l'hai sentito, non lo voglio più tra i piedi. Questo è il titolo del Corriere della Sera, Alessandro Trocino. Tutti raccontano in retroscena, e insomma, di una sindaco di Roma molto molto arrabbiata. Anche Repubblica: Virginia voleva cacciarlo ma Grillo l'ha frenata, non aprire un altro fronte. Quindi in questo momento l'assessore Berdini rimane, ma molto congelato, diciamo così. Tra l'altro, sul Movimento 5 Stelle c'è una notizia del Giornale che torna sulla questione delle liste dei giornalisti sgraditi fatta da Luigi Di Maio. Pasquale Napolitano racconta questo così gossip a pagina 4 del Giornale. Di Maio, che anche lui è giornalista iscritto non nell'ordine elenco professionisti ma elenco pubblicisti, ci sono due ordini, ebbene, da 2 anni non paga la quota di iscrizione all'ordine dei giornalisti. Quindi il giornalista Di Maio denuncia i cronisti ma non paga l'ordine. Questo scrive il Giornale. Va bene, questo per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle. Sono stato abbastanza critico, giusto, duro, equo? Fatemelo sapere, amici del 5 Stelle. Invece... il Partito Democratico, Partito Democratico in estrema difficoltà. Secondo alcuni retroscena, Renzi mediterebbe una mossa: dimettersi da segretario del PD per indire così il congresso. Lo racconta Laura Cesaretti sul Giornale a pagina 6, lo racconta anche il Corriere della Sera. Lo farà? Staremo a vedere. Intanto parla D'Alema. Parla D'Alema: siamo seduti su una polveriera, se si vota ora lo spread va a 400. Titola così Repubblica l'intervista di Stefano Cappellini, un'intera pagina, quando intervista D'Alema è sempre di una pagina, meno non è concesso da D'Alema ai giornali, notate la finezza, da D'Alema ai giornali, una pagina. Massimo D'Alema è l'ex premier che frena sull'uscita dai Dem. Senza urne la battaglia si sposta sul congresso. Comunque dice: non si deve andare a votare. L'idea di precipitare verso elezioni anticipate con una legge proporzionale con prospettiva certa di ingovernabilità è una scelta folle. Con quale progetto? Quali ipotesi di alleanze? Poi parla della sua ossessione, anche se lui non la definirà mai così, anzi è il contrario, Renzi. Lei definiva una speranza Renzi, poi andò alla poltrona di alto rappresentante per la politica europea, la Mogherini, ed è nata la guerra. Non commento queste stupidaggini, risponde D'Alema. Come è noto, ho contrastato Renzi per ragioni politiche, molto prima delle vicende europee. Quando ci saranno il congresso e i candidati farò le mie valutazioni. Ma registro al momento che da Bersani a Speranza, Emiliano e Rossi sosteniamo posizioni simili. Anche Cuperlo ha più volte sottolineato che Renzi non può essere la guida adeguata di un nuovo centrosinistra. Anche se la frase più straordinaria dell'intervista è: io non sono un rancoroso. Massimo D'Alema, pagina 11 di Repubblica. Tra l'altro ha parlato dello spread. E oggi sullo spread c'è una straordinaria amaca di Michele Serra, sempre in prima pagina di Repubblica. Il buon vecchio spread. Da quanto non ne sentivamo parlare? A un certo punto pareva che da lui dipendessero le sorti della nazione. Apriva ogni sera i telegiornali, fu addirittura accusato di aver fatto fuori Berlusconi. Poi si era messo tranquillo. se ne parlava pochissimo. Ora è tornato, come il cowboy che ricompare nel saloon e tutti si girano e mormorano. Ma quello non è Spread? Dove era andato a finire? L'impressione, da profani per carità, è che ci siano parametri economici che sono come certi artisti, sopravvalutati. Lo spread è un numero, indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiano e tedeschi. Le agenzie di rating, buone quelle, lo tengono in grande considerazione per formulare le loro valutazioni, ma a loro volta, facendo le loro valutazioni, lo influenzano. Dunque lo spread non è, come dire, un valore oggettivo e inappellabile, ma come molte cose dell'economia è una convenzione che va interpretata. Se per esempio ogni volta che si rende pubblico lo spread italo-tedesco gli si affiancasse lo spread italo-maltese, e se non esiste lo si istituisca subito, ne ricaveremmo un grande beneficio psicologico, migliorerebbe l'autostima, produrremmo di più, le agenzie di rating ne terrebbero conto e lo spread migliorerebbe. Vabbè, paradossi, caro Mauro Meazza, come i tre punti, quelli non sono paradossi, i tre punti che vi abbiamo recuperato, paradossi, paradossi dell'economia. Ecco. Buongiorno, ma anche la classifica in fondo è una convenzione, che vogliamo dire, no? Sì, ma sì, esatto. Anche, non so, i rigori sono una convenzione, il rigore in senso economico. Le immagini televisive, sì. Sono tutte convenzioni. Anche saper perdere o vincere è una convenzione. Comunque, sullo spread invece, ti invito a meditare sulla pagina 3 Bene. Del Sole 24 Ore di oggi, perché appunto questo, c'è questo paradosso. Allora, visto che parli di paradossi, viene appunto denunciato bene da Moria Longo, che spiega nella sua analisi alla fine i populismi contrapposti da una parte in America e dall'altra in Europa, è bene che succede, fanno del bene ai paesi emergenti, cioè ecco, proprio coloro che dovrebbero essere tagliati fuori dai protezionismi, dai neoprotezionismi emergenti. Ma vabbè, è un paradosso, medita, già che sei sulla pagina 3, spostati anche sulla 2, perché come sai il decreto banche, te lo ricordi il decreto banche? Come no? Il decreto banche ha ottenuto il primo sì, è il primo perché poi ci vuole, come è noto, l'altro passaggio alla Camera, e allora lì ci sono diverse misure, non ci sarà una lista nominativa dei grandi debitori, sai che se ne era parlato, ecco, nella formulazione uscita dal Senato questo non è previsto, ci saranno dei profili di rischio, ma saranno anonimi, ma tutti i particolari sono riportati a pagina 2, e poi naturalmente la manovra che arriva, manovrina, 3 miliardi e qualche cosa, come è noto, le accise, ne parli da giorni, so che ti appassionano molto le accise, e allora ci saranno queste accise. Adesso spunta anche la tentazione di intervenire sul bollo e sul registro, ma vedremo, perché la questione è abbastanza complicata, ne riferisce ad esempio Marco Mobili a pagina 5, leggi serenamente direi in questo caso sul Sole 24 Ore, no, siamo ancora nella fase delle decisioni da prendere. Oh, naturalmente essendo giovedì non ti puoi far mancare Casa 24, sai che c'è un ritorno di interesse per la nuda proprietà, non so se tu hai parlato molto di sesso, non lo so se nuda lo puoi dire, nulla. Non so. Non è una questione che riguarda il sesso, la nuda proprietà, ma è un modo appunto di cedere la proprietà ma mantenendo il diritto di abitarvi, vabbè, leggi su Casa 24 così è più chiaro, insomma si può far leggere anche in questo caso ai bambini, visto che hai avuto dei trascorsi con gli ascoltatori. E poi, articolo da anticipazione, il nuovo, con le correzioni, diciamo meglio, al codice degli appalti. Leggi sul Sole 24 Ore, domani in Consiglio dei Ministri verrà corretto il codice degli appalti, peraltro non è vecchissimo, non ha neanche un anno di vita. Ti dico, concludo con una cosa di scuola e sempre di bambini. Sappi che secondo il Tribunale di Treviso, la scuola è responsabile e deve pagare per la caduta del bimbo in cortile. Deve vigilare, così ha statuito il Tribunale di Treviso, trovi tutti i dettagli su norme e tributi che come sempre ti invito a leggere integralmente, ma soprattutto, caro Alessandro, religiosamente, nel congratularmi per l'epica impresa di ieri sera, congratularmi si fa per eroici, dire naturalmente, eroici. L'abituale augurio. Raffico! Bentornato Alessandro Milan, il prelato che legge i giornali religiosamente. Vabbè ragazzi, allora va bene. Ricordate ieri i 97 milioni di garanzia per il torneo di golf, la Ryder Golf Cup? passati in un decreto sulle banche. Ebbene, è stato giudicato tutto ciò dal presidente del Senato Grasso inammissibile, perché non si può in un decreto sulle banche appunto dare un finanziamento, un decreto salva banche, 97 milioni di garanzia su un torneo di golf. Come dire, la materia che ci azzecca, direbbe Antonio Di Pietro. Grasso blocca i 97 milioni di garanzia sul golf, così la stampa: niente soldi per i mondiali di golf, la politica dice no a un altro evento. La polemica su tutti i giornali. C'è anche un'intervista a Adriano Panatta che dice: ho passato tutta la vita a confrontarmi con un avversario, ora affronto un campo, il golf è uno sport maledetto, mi fa impazzire il sistema nervoso, insomma lo adoro. E dice: è sbagliatissimo rifiutare questo torneo e rifiutare questo finanziamento, perché è invece un evento mondiale e la nostra è una politica miope. Vabbè, le polemiche su questo. In tutto, ricordate il bonus cultura? Ebbene, oggi la stampa con Rafael Zanotti va a fare dei calcoli, e i calcoli sono un po' impietosi. Il flop del bonus cultura: i diciottenni hanno speso il 6,3% dei soldi stanziati. Ma come? Ebbene sì, il bonus cultura naviga in brutte acque, anzi rischia il naufragio. Al centro del dibattito politico per settimane tra il governo Renzi, che prometteva soldi ai neodiciottenni per la loro crescita culturale, l'opposizione che parlava di mancetta elettorale, il provvedimento è sparito dai radar. Ma in questi mesi in redazione hanno continuato a piovere lettere di maggiorenne freschi di compleanno alle prese con il farraginoso meccanismo burocratico studiato per permettere ai ragazzi di ottenere gli agognati 500 euro governativi. E allora, visto che c'è burocrazia farraginosa, difficoltà, eccetera, insomma, la stampa calcola, guardando agli esiti finali, si ha la percezione che davvero qualcosa non ha funzionato, perché sono stati spesi, staccati 200.000 coupon per negozi fisici, 350.000 per rivenditori online, per una spesa totale di 6 e 12,5 milioni, insomma un totale di 18,5 milioni, mentre la spesa totale stanziata è di 290 milioni. Un po' pochini, dunque, i soldi spesi per la stampa e il flop del bonus cultura. Sull'immigrazione invece vi segnalo che il ministro Minniti, ministro dell'Interno, va avanti sul progetto sintetizzato dal Giorno, così a pagina 7, i profughi facciano lavori utili e gratis. Lavori socialmente utili non retribuiti per i richiedenti asilo, rimpatrio per chi non ha diritto a stare in Italia. È questa la doppia linea su cui si muove Minniti: severità con gli irregolari, accoglienza con i regolari. È una strategia illustrata in audizione alle commissioni congiunte affari costituzionali di Camera e Senato da Minniti. Una strategia che deve coinvolgere la Libia, da dove quest'anno parte quasi il 100% delle persone che sbarcano in Italia. Deve coinvolgere anche gli altri paesi africani, l'Europa, che finora non ha risposto, dice Minniti, alla sfida della relocation, cioè ridistribuzione nei vari paesi. Solo 3.200 i profughi trasferiti finora. Questo è Rebus Migranti e la linea di Minniti con il Giorno che ne parla. Ne parlano tutti i giornali. Ne hanno parlato soprattutto tutte le donne italiane. Sottolineo soprattutto le donne. Del vestito di Diletta Leotta da Sky a Sanremo. Diletta Leotta, a cui hanno rubato alcuni scatti intimi finiti poi in rete. Diletta Leotta che è andata a parlare di questo, del cyberbullismo a Sanremo. Diletta Leotta che lo ha fatto con un vestito in cui parte del suo corpo era, come dire, ben visibile. E questo ha scatenato le donne. Caterina Balivo si è... poi ha chiesto scusa, ma ha detto non può presentarsi così mentre si allarga lo spacco del vestito e poi parlare di cyberbullismo. Che vuol dire? gli hanno risposto, è come dire, se l'è andata a cercare perché andava in minigonna. Insomma, è tutta una polemica. Non parlare di bullismo vestita così, ma il popolo della rete sta con Diletta, le donne, anche Cruciani su Libero una pagina. Ha solo problemi di invidia. Guarda qua, una pagina del Corriere, il vestito di Diletta, ragazzi. E poi le donne. 99% dei commenti di ieri su Diletta Leotta erano di donne. Meditate su questo. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ci sono delle mucche in fuga. Rosetta e Atena. E allora Libero vi dedica mezza pagina. Perché vagano per la brughiera lombarda. Troviamo loro una casa. Ma chi se ne frega!